Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Mercoledì 17 marzo, buongiorno di nuovo a tutti i nostri ascoltatori tra la città e il carcere, bentornati a Liberi Dentro e Duradio. Io sono sempre Caterina, a volte mi dimentico di dirlo ma mi conoscete, con me c'è Ignazio De Francesco da Montesole, buongiorno. Buongiorno a te e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori dal carcere e dalla città. E a Paola Leotti, sempre qui con noi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti naturalmente quelli che ci ascoltano. Allora, dovete sapere che dobbiamo fare un po' di cronistoria oggi, perché è passato già ormai quasi più di un anno, ecco, un anno e una settimana dalle rivolte dello scorso anno, quindi il titolo che cito è In carcere un anno dopo, da Avvenire, di Antonio Maria Mira, e sono stati tre giorni terribili, quelli tra il 7 e il 9 marzo, quando scoppiò la rivolta in oltre 20 carceri italiani, tre giorni drammatici che hanno portato anche a vari morti, e 15, in gran parte per overdose e farmaci prelevati dai detenuti nelle infermerie. Erano le prime settimane della pandemia e sappiamo bene che c'era la paura anche da parte dei detenuti, ed è stato questo il motivo anche delle rivolte, di non rivedere più chissà per quanto i propri familiari. E il blocco delle visite era stata, diciamo, la scintilla e come misura precauzionale al contagio. Forse una regia comune, non si sa, si sta pensando che cosa ci sia stato dietro, ma la protesta si inseriva in una situazione carceraria tornata pesante, con molti penitenziari sovraffollati. Quest'anno, come sappiamo, come sapete voi più di noi che ci state ascoltando dalle case circondariali, non è stato facile, siamo ancora in una situazione di pandemia, e il lavoro in carcere è diminuito, mentre sono aumentate le polemiche per alcune scarcerazioni di boss mafiosi per motivi di salute, però il Covid non ha certamente risparmiato neanche chi lavora anche all'interno del carcere. Tre agenti penitenziari, per esempio, sono venuti a mancare nelle ultime settimane e li ha voluti ricordare Marta Cartabia, la nuova ministra per la giustizia, annunciando che stanno procedendo anche le vaccinazioni negli istituti già a partire tra un paio di settimane. Quindi Marta Cartabia li ha ricordati, ha incontrato anche il nostro garante nazionale dei detenuti Mauro Palma, di cui avete ascoltato l'intervista qualche settimana fa e ritornerete a sentire, ma mi raccomando, non mollate, perché ci siamo noi anche con Liberi Dentro, ci sono tutti i volontari che sono pronti per darvi una mano anche nella distanza. Ignazio, io do la parola a te con le notizie dal mondo. Siamo in Marocco e stiamo parlando anche di disoccupazione, però sì, reinventata. Reinventata, ecco, un bel servizio di Suad Badri sulle matta. Queste idee sono notizie piccolissime, dice, ma che serve dare queste cose? Notizie grandi, appunto, il presidente che arriva, la guerra che scoppia, la pace che si fa. Tuttavia la nostra vita è fatta anche di cose poi piccole, di quello che succede all'angolo di casa. Allora, all'angolo di casa abbiamo anche Marrakech, è uno degli angoli di casa nostra, dove c'è un gruppo di operatori del turismo. Voi potete immaginare, ecco, tra tutti i settori, anche l'Italia è così, Venezia, Firenze, tutti i settori colpiti, uno dei più colpiti è proprio quello del turismo. Allora cosa facciamo in questo anno di pandemia? Ci reinventiamo per un'attività di formazione dei più giovani alle professioni dimenticate, all'artigianato, alle quelle professioni che fanno di Marrakech un punto di attrazione anche per i turisti, anche per il commercio che avviene con i turisti. E quindi ci sono questi operatori turistici, grandi maître d'albergo, grandi hall cameriere, il cuoco, la guida turistica, che hanno pensato di attivare una rete di cura sociale delle giovani, soprattutto delle giovani generazioni della città in questo momento di grande difficoltà. Mi sembra una bella notizia per il lato della solidarietà, ma anche per il lato delle potenzialità che ha la persona di reinventarsi. Nessuno di noi è nato per fare una e una sola cosa. E quindi non è il caso di cadere in depressione, non si può, se si può fare proprio più quella cosa. Bisogna sempre dare possibilità di reinventare nuove idee, nuove vie di professionalità. E quindi possiamo... Possiamo cambiare cantautore, ma siamo sempre nella musica berbera e passiamo a questa cantante algerina Amel Brahim Jellul, una soprano d'opera straordinaria. Ho sentito dei pezzi suoi e tra l'altro invito a rompere le righe, nel senso che noi in Italia dobbiamo ascoltare Azzurro, Lucio Dalla, Francesco De Gregorio, insomma, quel che si vuole, però dobbiamo ascoltare anche questa musica, che è musica che fa parte del nostro canovaccio di cultura. E questa grande cantante soprano berbera della canzone Amazigh ci propone questo pezzo che si intitola Ay al-Shir Inu. فوقني ما طوال النا فوقني ما طوال النا أتجرى الحلون تسقم ذفري ولا النا تسقم ذفري ولا النا ثذو بحري اللهنا يزو زول وانا هيا الخير نو واخر ثاك يا توخم او نهتي بزرامة او نهتي بزرامة E rieccoci sulle note musicali di questa nuova cantante berbera. Siamo sempre con te, Ignazio, per il nostro Galateo Arabo Internazionale, dove stiamo parlando di costituzione marocchina. Ieri abbiamo affrontato della libertà di pensiero, oggi parliamo di un'altra libertà. Libertà di religione. Abbiamo l'articolo 3. Articolo 3 che fa pensare, questo deve, ma lo dobbiamo leggere così, brevissimo. All'Islam, dinu d-dawla, wa d-dawla tatadammanu li kulli wahid hurriyati mumarasati shu'unihi ed-diniyya. Allora, la religione dello Stato è l'Islam. E lo Stato, ma lo Stato, assicura a ciascuno la libertà di esercizio delle proprie cose religiose, delle proprie riti religiosi. Quindi noi troviamo nella seconda parte l'espressione di una libertà, e questo è molto importante, eh? Ciascuno può esercitare la sua libertà religiosa. La prima parte fa un po' problema perché per il nostro sentire, io capisco, la religione, l'Islam è la religione dello Stato. Noi ce l'avevamo nel 1848, lo Statuto Albertino diceva la religione apostolica, cattolica, romana è la religione dello Stato, tutte le altre sono tollerate. Poi è venuta la Costituzione Repubblicana e non troviamo più il legame dello Stato con una religione, ma il principio dell'articolo 8 che tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Grazie Ignazio, e do sempre la parola al nostro ospite Paolo. E Paolo, guarda, io mi sono commossa a guardare Sogni dietro le sbarre, il tuo documentario. Invito tutti quelli che ci stanno ascoltando e guardando in questo momento ad andarselo a vedere, a ripescare. È andato in onda su Radio 2, su TG2 mi pare. TG2 Dossier. Esatto. E proprio a proposito di quello che dicevi ieri, della linea sottile tra il tuo lavoro di giornalista, quindi nel raccontare storie, però anche il dovere di proteggerle queste storie, no? Per non rovinare poi la fiducia delle persone che incontri. Però in carcere ci sono delle storie belle, ci sono per esempio delle storie d'amore, come quella narrata in questo videodoc di Celeste e di Maurizio. Assolutamente sì, ci sono delle storie d'amore che non pensavo neanche che potessero nascere, anche perché, come tutti sappiamo, mentre in altri stati, per esempio anche nord europei, è possibile per una persona che è in carcere fare l'amore con la propria moglie o compagna, in Italia questo non è possibile. È una delle battaglie che all'interno le detenute e i detenuti vorrebbero fare, ma al momento non c'è nessuna possibilità. Per cui l'amore, per esempio, tra Maurizio e Celeste è bellissimo come è nato. Loro abbollate sono totalmente distanti, il femminile e il maschile, ma si vedono un po' da lontano, perché hanno cominciato con i cuoricini da lontano, con i laser e con tutte quelle robe lì, perché degli amici e delle amiche avevano detto a lei e a lui: guarda che è proprio la persona per te. Quando finalmente lui è stato mandato nel femminile per dipingere un po', è arrivata, è girata, sai, radiocarcere, girano le voci, lei è andata a vederlo, si sono guardati, si sono innamorati. Si sono innamorati, che significa? Hanno cominciato a scriversi. Ci hanno messo tanto, pian piano si sono potuti anche scrivere e si sono potuti vedere, ma lì nello spazio comune, tutti quanti che li guardavano. A questo punto si sono tanto innamorati che si sono sposati per potersi vedere 8 ore al mese invece che 4. E questo è quello che hanno ottenuto adesso. È una storia molto bella che io non vorrei parlare male di nessuno, ma insomma Celeste è stata anche intervistata, è andata in onda in una famosa trasmissione, ahimè, su Rai 3, presentata come l'amantide religiosa, perché per quello che aveva fatto nel passato. Ecco, questo spiega anche come si può parlare della stessa persona in un modo o in un altro. Se la vedete nel documentario, vedete che il sorriso che hanno Maurizio e Celeste dentro le sbarre è un sorriso che tanti innamorati fuori non hanno, poi soprattutto adesso. Quindi trovare quella gioia lì dentro è stato veramente bellissimo. Non so se ho tempo per un'altra Hai il rapidissima tempo, storia sì. d'amore, ma un po' al contrario, Marina e Michele si conoscono, cominciano a frequentarsi. Lui si innamora tanto che, essendo uno che non se ne fregava proprio di niente, comincia a leggere dei mattoni grandi così, il Capitale di Marx, perché lei è una anarchica e ci teneva tanto. Lei alla fine decide però di allontanarsi da lui, perché il fatto che lei è anarchica impedisce a lui di avere delle uscite premio, lo blocca un po', e questa cosa fa piangere Marina, che decide di raffreddare per il momento il rapporto. Quindi, Quindi insomma. c'è qualcosa che va bene, qualcosa che un po' si arresta, si congela. Sì. Non so Che se siamo brano già lanciamo? arrivati. Sì, siamo arrivati alla fine. Che brano vogliamo lanciare? Allora, avevo pensato a Fabrizio De André, che è un grande cantore, un poeta che io amo molto, lo so, Padre Ignazio, che non possiamo sentire solo loro, però insomma loro valgono la pena. Avevo pensato a Don Raffaè, che è un pezzo bellissimo e celebre, che denuncia la situazione critica delle carceri italiane degli anni 80. Però, invece che questo, ho pensato a un altro brano, Hotel Supramonte, che ricorda invece i 4 mesi di prigionia di Dorighezzi, che era la compagna all'epoca di Fabrizio De André, ancora non erano sposati, e di lui, nel Sopramonte, appunto, che è questa montagna rocciosa vicino ad Orgosolo. Lui scrive delle cose veramente bellissime e molto dolci, e alla fine decide anche di perdonare i propri rapitori, dicendo che in fondo i veri prigionieri non erano lui e Dori, ma erano i sequestratori. E quindi Hotel Sopramonte di Fabrizio De André. Grazie, noi ci rivediamo domani con voi, ma seguiteci con il prossimo ospite. Ma dov'è il tuo amore? Ma dove è finito il tuo amore? Grazie al cielo, ho una bocca per bere. E non è facile. Grazie a te ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito. all'hotel Supramonte, dove ho visto la neve sul tuo corpo, così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà anche questa stazione senza far male. Passerà questa pioggia sottile come passa il dolore. Ma dov'è? Dov'è il tuo cuore? Ma dov'è? È finito il tuo cuore? Rieccoci, bentornati su Liberi Dentro, e io do il benvenuto a un nuovo ospite, perché questa volta sei la prima volta che sei su Eduradio. Benvenuto, Mossab. Grazie mille. Buongiorno. E tu lavori come mediatore culturale presso il carcere della Dossa, e devo dire veramente che siete stati una luce nel buio in questo periodo come mediatori, perché siete stati fra gli unici a poter entrare, proprio perché svolgete uno di quei lavori, tra virgolette, veramente che non si possono definire non necessari in questo momento, anzi, assolutamente essenziali, anzi. E quindi quello tra le cose che svolgete, le telefonate dai diversi piani per segnalare i bisogni, le telefonate ai parenti, le traduzioni che sono sempre all'ordine del giorno, e poi naturalmente, nonostante non si possano favorire ancora gli incontri, vi occupate di quelli che sono tutti i rapporti interfamiliari tra i detenuti e le loro famiglie, e oggi ci concentriamo un po' su questo. E infatti parto subito, siccome il 12 di aprile comincia Ramadan, volevo chiederti un'accezione in particolare di questo tempo di purificazione che è il Ramadan, come tempo anche per riscoprire i propri legami familiari, fare un po' una luce su se stessi e riscoprire l'importanza di questi rapporti. Noi arabi, musulmani, noi che abbiamo fatto Ramadan, noi che facciamo Ramadan, noi in qualche modo che abbiamo a che vedere con il Ramadan, non solo chi fa il Ramadan, ma anche chi lo vive da vicino, non può non vedere quanto il Ramadan è un evento sociale, un evento che collega un po' tutta la comunità. Mette in contatto i familiari, ma non solo, rimette tutto l'ordine della comunità un po' sui binari giusti. Prima del Ramadan viene chiesto in un modo molto, molto chiaro a chi lo fa Ramadan di ripacificarsi con i rapporti interrotti, i rapporti che hanno avuto interruzione nell'arco dell'anno. Uno dei motivi per quali poi a una persona che digiuna e fa Ramadan non gli viene quasi accettato il suo digiuno, e gli viene detto il tuo digiuno, il tuo sacrificio di tutto Ramadan non va da Dio, rimane nel cielo, non va da Dio perché hai litigato con una persona e non ti sei ripacificato prima della fine di Ramadan, quindi hai anche tutti i giorni di Ramadan per fare questo. Noi poi qui in carcere abbiamo questo elemento che riesce sempre, che è un elemento molto fondamentale, quello di contattarsi, di mettersi in contatto con i propri familiari. Ovviamente qui in carcere tutti i detenuti hanno la possibilità di chiedere l'autorizzazione di essere autorizzati a parlare con la propria madre, piuttosto con un proprio cugino, ma anche con un amico che non sia per forza che non abbia per forza un legame familiare, ecco. Ovvio che ci sono delle documentazioni da portare, dei moduli da compilare. Ci sono molti detenuti che poi portano avanti questa richiesta, molte persone che sono consapevoli della necessità di essere in contatto, di non essere soli, di confrontarsi con i propri familiari, e tanti altri noi abbiamo a che fare con questo sempre, tanti altri poi non vogliono avere rapporti con i propri familiari, chi per un motivo e chi per un altro. Rimangono qui tanti anni, alcuni per 4-5 anni, poi si accorgono dopo 4 anni di avere proprio la necessità di parlarne con qualcuno. E questo argomento riesce spesso, ecco. Grazie Mossaba, hai detto tante cose e infatti è già giunto il momento di lanciare un brano musicale e dopo ritorniamo con te sui legami familiari. Io vorrei suggerire questo brano molto bello, molto caro a me, si chiama Ahenno, il titolo è in arabo, ve lo pronuncio in arabo, poi è anche in italiano. Il titolo in arabo è Ahenno ila khubzi ummi, Ahenno ila khubzi ummi di Marcel Khalifa, in italiano sarebbe Mi manca il pane di mia madre. Buon ascolto. Rieccoci, bentornati sulle note di Liberi Dentro, sulle note musicali di Marcel Khalifa, questo bellissimo brano. E volevo chiederti, continuando la nostra chiacchierata sul Ramadan come tempo di ricongiungimento per i legami familiari e non solo, chiederti che cosa significa in arabo, se poi me lo esprimi, il concetto di ricongiungersi al proprio grembo e se esiste anche un grembo che va oltre quello familiare. Allora, in arabo vi è questo concetto che non è traducibile in nessun'altra lingua ed è il concetto che definisce il rapporto familiare, il rapporto con i propri familiari, ma non solo, ecco. E la parola, il termine per definire questo rapporto è salat al-rahim, sarebbe ricongiungersi con il proprio grembo. È come se tu esci dal grembo e poi hai proprio a una certa, rifai il ricongiungimento, ti ricongiungi al tuo grembo. E Salat al-Rahim si usa per definire qualunque rapporto che hai con i tuoi familiari e non solo, ecco. Diciamo che è talmente tanto importante il concetto di Salat al-Rahim nell'Islam che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam riporta in vari hadith, in vari detti, che chi crede in Dio dovrà solo mantenere il rapporto con i propri parenti. Ed è così, non c'è altro da aggiungere. Per cui viene detto chiaro a tutti i musulmani che è fondamentale stare in contatto con i propri familiari, è fondamentale mantenere questo rapporto. Ancora di più, prima del Ramadan, come dicevo prima, se non ti rapacifico con i tuoi familiari, è come se il tuo digiuno non vale. Dicevo che vale per i propri familiari, ma non solo, perché nell'Islam la religione, come dice Muhammad sallallahu alaihi wasallam, il profeta, la religione è dinul muamala, la religione è comportamento. Questa è la definizione della religione, così la definisce Maometto. La religione è comportamento, per cui non è preghiera, non è digiuno e basta, non è la religione è comportamento. Salat al-Rahim, ricongiungersi col proprio grembo. È un concetto di umanità, di un grembo di umanità, del grembo Di solidarietà anche. di solidarietà di tutte le persone. Sempre Muhammad, il profeta, sallallahu alaihi wasallam, riporta che per il musulmano tutti sono suoi fratelli. E riporta dicendo che se una persona in Cina si ammala, una persona musulmana si dovrebbe sentire male, perché sono tutti legati tra loro. E questo concetto esce varie volte. Nell'Islam sì, viene riportato varie volte. E allora, Mossab, secondo te, e l'abbiamo detto un po' all'inizio dell'intervista, ma come mai a volte ci allontaniamo proprio da questi legami familiari che sono così importanti invece? Diciamo che ci sono veramente tanti motivi per i quali noi ci allontaniamo dai nostri familiari. Noi possiamo dire che a volte risulta anche più semplice, e io questo lo capisco anche a un detenuto che è in carcere, a volte risulta più semplice non riportarsi, non confrontarsi, non mettersi in gioco, risulta più semplice invece nascondersi e scappare e aspettare che poi arriva quel momento in cui ci cariamo, se non arriva non mi impegno. Quindi c'è a volte questo modo di pensare che sia più semplice ecco, non rimettersi in contatto con i propri familiari. A volte magari abbiamo anche delle proprie nostre arroganze, dei lunghi periodi di interruzioni per cui poi diventa dopo difficile. Diciamo che anche uno si abitua anche alla propria solitudine, alla propria tristezza, dopo diventa sempre più difficile Sì, ritornare. diventa una catena praticamente di emozioni negative. Quindi se ti chiedessi proprio un consiglio brevemente per ricominciare a ricucirli. Sicuramente non si può non partire da una consapevolezza. Io dico che la consapevolezza dell'importanza di questo di un legame unito tra me e i miei familiari mi aiuta per sempre, non aiuta solo me, ma mi rende tranquillo nel mio vivere. Quindi la prima è la consapevolezza di dare l'importanza giusta a questi rapporti. Consapevolezza con anche umiltà e capacità di mettersi in gioco, perché risulta sempre più facile, come dicevo prima, scappare, ma se io ho l'intenzione di mettermi in gioco, allora è anche una consapevolezza di prendersela qualche volta, di non aver sempre ragione, di chiedere scusa a chi Chi abbiamo offeso in qualche è. modo. Grazie, è il momento di salutarci, ma torneremo di nuovo con te a parlare di tutto questo. E un brano lo lancio io, è Ismaello Tajabón. Alla prossima, grazie. Abdu Huyambar Nyare Malaikala Hawe He Chico Dano Cesaro Momu Munila Begam Julingam Momu Dopo le parole di Mossab, il mediatore culturale della Casa Circondariale d'Ozza di Bologna, ci salutiamo anche oggi. Vi do appuntamento alle 17 con l'equipe sanitaria del carcere, la pillola a cura di Agnese Drusiani. E vi ricordo di scriverci, l'indirizzo postale è sempre quello, via San Mammolo 2 40136 Bologna, intestato a Liberi Dentro, oppure la posta elettronica liberidentro.eduradio@gmail.com. Buona giornata a tutti quanti e a domani.